是曹音。 L L Lepre Lepre Leone Leone Lapis Lapis Losanga Losanga 练习 Lago Lago Loto Loto Libro Libro Luna Luna Legno Legno Lupo Lupo Palma Palma Caldo Caldo Olmo Olmo Albero Albero Qualche Qualche Molto Molto Oltre Oltre Altro Altro Dolce Dolce Calma Calma Alba Alba Volpe Volpe Soltanto Soltanto Altrettanto Altrettanto. Il salotto è tanto bello. La luna è là in alto. Il letto è molto lungo. Il falegname lavora il legno. 谚语 Proverbi. Molto più fanno gli anni che i libri. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.